Terra in vista. Le emozioni spiegate a mio figlio. Buon 26 dicembre da Federico Taddia e Telmo Pievani. Ciao, ciao Telmo. Bentornato. Eccoci qua, buone feste. In queste feste ci siamo con Terra in vista. Stiamo facendo un viaggio nelle emozioni. Ieri una bella parola che l'abbiamo spiegata ai nostri giovanissimi ascoltatori. La parola era amore, una parola molto natalizia, ma anche quella di oggi ci sta con Natale. È imparentata. La parola è desiderio. Come sempre, tante domande dei più piccoli, tante risposte dei più grandi, ma partiamo proprio dalle voci dei bambini. Yuhu! Beh, il desiderio è quando si vuole particolarmente qualcosa. Certo che quando diventa una cosa troppo prolungata, cioè espansa, tanto da fare cose assurde, non è che sia una cosa buona. Qualcosa che devi esprimere e delle volte, se sei fortunato, si avvera. Un sogno che vuoi realizzare oppure che vuoi tenere per te. Un desiderio? Una cosa che chiedi. Io ho chiesto delle carte da gioco. Il desiderio per me è qualcosa che tu desideri molto. È come se tu però... Un desiderio vero è quando tipo tu desideri un'emozione. È una cosa che vuoi, che ti piace avere. È una cosa che ti ispira. Quante cose che può essere un desiderio, vero Telmo? Sì, tante facce, e hanno colto tra l'altro molti degli elementi più importanti. Pensa che un grande scienziato come Galileo diceva che anche la scienza ha la sua emozione, sai qual era per lui? Era l'inquietudine, nel senso di un desiderio di conoscenza che non viene mai saziato. Quindi anche la scienza c'è un desiderio. Cos'è il desiderio? Ne parleremo oggi. Non è un bisogno, quello è primario, è fisiologico. Il desiderio è una spinta verso qualcosa o qualcuno, no? Questo perché le emozioni motivano le nostre azioni, ci conducono verso un obiettivo il cui raggiungimento noi pensiamo ci darà un piacere, ci darà felicità, ci darà soddisfazione. Poi, come ha detto il bambino, giustamente non deve diventare ossessione, perché poi tra l'altro il desiderio frustrato continuamente per ciò, per esempio, che hanno gli altri, diventa risentimento, diventa quella cosa che si chiama invidia, che secondo me è una delle peggiori emozioni umane, è anche quella più inconfessabile, no? Odiare la felicità e il successo dei desideri che hanno gli altri. Invece quello più bello, secondo me, il desiderio è quello che diceva Galileo, cioè la curiosità, che anche questa è un'emozione. Ovviamente anche questa può diventare morbosa, no? Il voler vedere cose, farsi gli affari degli altri, il web su questo ci insegna, però intendiamo invece il desiderio di conoscere, di viaggiare continuamente. Italo Calvino la chiamava la dromomania, cioè un'inquietudine di ricerca, di muoversi, di conoscere il mondo, e secondo me questo poi è il desiderio più impresso nella nostra evoluzione, perché noi siamo migranti da 2 milioni di anni e siamo migrati perché avevamo questo desiderio di vedere sempre cosa c'era dall'altra parte della collina. Che bello, che bello. E chissà se questa bellezza la trovano anche gli scrittori. Ogni puntata inizia così, diamo in pasto la nostra parola, la nostra emozione a uno scrittore o a una scrittrice per capire come chi di professione usa le parole, appunto, maneggia questo termine. Oggi con il desiderio abbiamo il piacere di avere qua con noi Fabio Geda. Ciao Fabio, buone feste. Ehi, ciao, ciao, buongiorno, benvenuto. Buone feste a tutti, grazie. Allora, uno scrittore cosa se ne fa del desiderio? Beh, lo usa come un grimaldello, no? Per riuscire a entrare nelle storie. Nelle storie è fondamentale il desiderio, anzitutto il desiderio di andare avanti, no? Di andare avanti nella storia, di scoprire cosa succede. Se uno scrittore non riesce a far venire al lettore il desiderio di sapere cosa capiterà durante quella storia, alla fine, oppure banalmente di stare dentro la storia, ecco, allora in qualche modo lo scrittore ha un po' fallito il suo compito. È vero, insomma, ad essere... Quel desiderio è qualcosa che ti fa desiderare anche di finirlo quel libro, no? Quindi comunque dell'andare avanti, dell'esserci, che ti fa desiderare di finirlo e che alle volte te lo fa mancare quando poi l'hai finito, no? Perché stare dentro la storia era talmente piacevole che tu desideri ritornare in quella storia. Infatti, come dire, mi ricordo, come dire, ai tempi di Harry Potter, il mio desiderio di avere tra le mani il nuovo libro della saga era per me fortissimo, perché sapevo di ritornare e ritrovare in quel mondo magico che la Rowling aveva creato. Ma senti Fabio, tu cosa pensi di questa idea che in fondo, leggendo un libro dentro il quale sono espressi dei desideri, il lettore si immedesima nei desideri di cui tu stai parlando, no? I nostri neuroni specchio si attivano e ci fanno quasi rivivere, ci risuonano le emozioni che tu racconti. Beh, l'empatia è la grande magia delle storie, la possibilità che le storie ci danno di vestire i panni di altre persone e quindi, vivendo le vite di altre persone, di rendere poi la nostra vita molto più larga. Voi parlavate di curiosità prima, ecco, io credo che una delle cose che le storie dovrebbero far sedimentare in chi le legge è proprio la curiosità, poi di andare fuori, no? E provare quelle cose, vedere quei luoghi di persona, fare di persona quelle esperienze o eventualmente non fare quelle esperienze che si sono dette. Fabio Gere, uno degli scrittori più amati anche dai ragazzi, c'è qualche trucco per solleticare il desiderio? C'è qualche trucco di scrittura? Guarda, io credo che il vero problema per noi scrittori adulti sia in realtà ritrovare quello stupore, quel desiderio che tutti i ragazzi hanno, no? Quando si cresce e si impara a conoscere la vita, si diventa magari un po' cinici e gli occhi non luccicano più come quando avevi 12 anni, 11 anni, che le estati sembravano infinite, tutto il mondo sembrava un grande mistero, tutto da svelare. Quindi il vero problema di chi scrive letteratura per ragazzi è proprio quello di ritrovare dentro di sé quello stupore. Io credo che lo si possa fare solo in due modi, cioè ritornando in contatto col dodicenne che si era, oppure continuando a frequentare un sacco di preadolescenti, e quelli sicuramente ti mantengono acceso lo stupore. Fabio, così un ultimo regalo invece per i tuoi lettori che magari desiderano il nuovo Berlin, puoi darci qualche anticipazione? Ah beh, certo, allora il nuovo Berlin anzitutto esce a giugno, esce a giugno del prossimo anno, sarà l'ultimo capitolo e sarà proprio, come dire, stando nella parola desiderio, la conclusione e la soddisfazione, io spero, di tutti i desideri di tutti i nostri lettori che vogliono capire: uno, cosa accidenti è successo, come mai si è sviluppato il virus di cui parliamo nella saga, e poi che fine faranno i nostri protagonisti. Quindi insomma, l'attesa fa parte del desiderio, quindi insomma questi mesi che ci separano da giugno serviranno proprio per alimentarlo ancora di più. Grazie davvero a Fabio Geda per essere stato qua con noi, buone feste, buon anno, ciao Fabio. Grazie a voi. Ciao, grazie, presto. Grazie a tutti, ciao Fede, ciao. Dopo aver salutato Fabio Geda è il momento della prima delle domande fatte dai ragazzi. Yuhu! A cosa servono i desideri? Domanda secca, diretta, eh? Ammesso che servano a qualcosa. È vero, non lo sappiamo. Beh, per avere risposta abbiamo invitato una pedagogista e pedagogista all'Università di Bologna. Diamo il benvenuto a Maria Grazia Contini. Ciao Maria Grazia. Ciao. Telmo, devo confessarti che è stata una mia professoressa. Quindi, no, sì. Allora un sacco di domande da farti. E lui è stato un mio studente, che era anche un mio lo confesso, lo amavo moltissimo. Quando facevamo dei giochi di ruolo riusciva sempre a fare tutto, riusciva sempre a fare quello che gli altri non facevano, e io dicevo: ma che cosa farà nella vita Federico? Ecco, vedi, adesso guarda. Intervisto la prof, hai capito? Allora, Maria Grazia, siccome Maria Grazia parla tantissimo di sentimenti, di relazioni, ma soprattutto fa parlare anche tantissimo le bambine e i bambini, quindi mi sembrava la persona adatta per capire e spiegare soprattutto che cos'è un desiderio e a cosa serve. Da dove partiamo? Ecco. Partiamo, se voi mi permettete, da un episodio che vi racconto. e che mi ha raccontato un insegnante di scuola dell'infanzia che lavorava in quel momento, alcuni anni fa, poco prima di Natale, con un gruppo di bambine di 5 anni. Allora dice: bambine, facciamo questo gioco, io ho questo cartellone grande e voi mi dite che cosa desiderate da Babbo Natale e io scrivo tutti i vostri desideri. Potete dirmi qualunque cosa, proprio non ci sono limiti, tutto quello che volete io lo scrivo. Silenzio. Sì. E facce un po' disorientate. E lei insiste: ma qualunque cosa, senza limiti, proprio anche le cose più strane, più... Silenzio. Finché una bimba dice: maestra, ma non ce l'hai un Deplian da farci vedere? Allora, la bimba chiede un Deplian perché non riesce, nessuno di loro riesce ad avere un desiderio. Quindi cosa dice questa frase di questa bambina? Dice una cosa molto molto seria, molto grave, e cioè che anche a 5 anni i bambini possono non avere desideri, perché gli diamo tutto prima, gli diamo troppo, gli diamo troppe cose, troppi oggetti, troppi stimoli, non gli lasciamo il tempo della maturazione, dell'attesa, perché lo dicevate voi anche prima, no? Il desiderio richiede una mancanza di qualcosa e un'attesa. Se tu hai tutto, come fai? Proprio a loro non veniva in mente nulla, non veniva in mente nulla, perché hanno tutto, hanno troppo. C'è stata una mostra bellissima che io ho inserito nel documentario che ho fatto proprio sull'adultizzazione dei bambini. Io ho fatto un documentario e un libro intitolato Corpi bambini, sprechi di infanzia, in cui tratto questo tema dell'adultizzazione. Li rendiamo come noi già quando sono piccolissimi, e vuol dire che gli rubiamo l'infanzia. E lì c'è un'immagine di una mostra bellissima in cui sono i bambini, sono sommersi di tutte le loro cose, alla fine non si vedono più, i bambini diventano cose tra le cose. E quindi insomma i desideri servono proprio a questo, quindi servono a sperimentarsi, servono a crescere, servono a formarsi. Servono ad avere una tensione verso qualcosa che ti manca, che vuoi raggiungere, ma devi averla questa tensione, devi avere un po' di noia, dei tempi distesi in cui anche ti annoi, in cui ti perdi, no? Si diceva un tempo, i bambini si perdono, devono perdersi, fare le loro cose per conto loro, perdersi, annoiarsi un po', adesso guai se si annoiano, non si può annoiare, subito l'iPad a disposizione perché non possono annoiarsi, mentre la noia è preziosa. Nei momenti della noia, nei momenti della solitudine anche, no? Qualche momento in cui sei solo, dicevo Winnicott, alla presenza degli adulti, chiaro che non ti abbandonano, però sei anche solo, e allora lì fantastichi, pensi per conto tuo, vagheggi qualcosa, cominci ad avere il desiderio di qualcosa e anche il desiderio di arrivare a quel qualcosa. Ovviamente i bisogni sono uguali per tutti, i desideri parlano di noi. Certo. Maria Grazia, dimmi. Ma Federico non si annoia mai, no? Perché fa sempre quattro cose contemporaneamente, quindi quando era tuo studente cosa desiderava? Desiderava 25 cose contemporaneamente, cosa faceva? Sì, infatti lui mentre giocava, faceva i giochi, intanto parlava con qualcuno, intanto leggeva qualcosa, sì, faceva, era un po' iperattivo, però io mi ricordo anche il suo viso di ragazzino giovane, anche un po' perso, aveva anche dei momenti in cui era un po' perso, in cui era perso un po' con lo sguardo che andava per conto suo, che seguiva dei suoi pensieri, seguiva dei suoi sogni. Anche adesso. Se non è cambiato nulla, stavo pensando che in effetti... insomma, perché appunto è il momento, il desiderio richiede l'attesa, a volte l'attesa è anche lunga, nel mio caso è questo. Maria Grazia, invece volevo chiederti, desideri, bisogni e sogni, quindi un bambino o una bambina che non ha desideri vuol dire che è un bambino o una bambina anche che non sa più sognare? che non sa, sì, che non ha imparato a sognare, perché poi prima chi mi ha preceduto diceva, parlava, no, di un dodicenne che ha lo stupore, che è bellissimo, sarebbe bellissimo se il dodicenne avesse lo stupore. Io ho fatto molta ricerca proprio su questo, moltissima, sui bambini, adesso sui preadolescenti. Lo stupore purtroppo glielo togliamo molto presto, cioè c'è una grande responsabilità in noi adulti, nel mondo adulto, nel non preservare, nel non tutelare l'infanzia. L'infanzia invece è proprio quello, è lo stupore, la meraviglia, è il piacere di desiderare qualcosa e di desiderarlo anche a lungo, va bene, bisogna anche avere un po', no, questo senso che forse quando è che arriva, quando è che è possibile. Però voglio dire anche un'altra cosa, che siccome ho detto che i desideri parlano di noi, allora non è che noi poi siamo perfetti, che i bambini sono perfetti, sono bambini in situazioni molto agevolate, molto, molto ricche di tante cose, altri invece più poveri. Hanno anche bisogno di esplorare. Il grande bisogno, no, dei bambini è l'esplorazione, esplorazione della natura, esplorazione del mondo, certo, dell'ambiente che li circonda, dei rapporti con gli altri, esplorazione attraverso le storie che leggono, che gli leggono, insomma, gli altri, oppure che vedono nei film. Più hanno occasione di esplorazione, e lì bisogna che i genitori siano attenti a non fare i genitori spazzaneve, che per il terrore, no, che si facciano male, che ci siano dei pericoli, che ci sia qualcosa, impediscono in realtà di fare esperienze, di farle queste esplorazioni. All'interno delle esplorazioni vengono fuori dei nuovi desideri, perché se no ci può essere anche una povertà di desideri. È chiaro? Io desidero di più se ho più conoscenza, se ho più possibilità, ecco, di avere dei desideri. Se sono molto in un ambiente molto deprivato dal punto di vista intellettuale, relazionale, anche sì, sì, delle esperienze, come hai ben detto, no, che credo che sia proprio questa la parola magica, ed è questa la parola che ci prendiamo come regalo per questo Natale. Grazie davvero a Maria Grazia Contini, pedagogista dell'Università di Bologna, per averci fatto desiderare i desideri. Ciao Maria Grazia, grazie, auguri. Ciao, grazie. Ciao a tutti voi, auguri, auguri. Ed ecco il momento della poesia. In queste puntate dedicate all'emozione c'è anche la poesia, appunto, che utilizziamo per meglio descrivere i sentimenti. Lo facciamo con Chiara Carminati, che è qua con noi. Ciao Chiara, come sempre, ciao. Buone feste. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Beh, oggi è una parola leggera, non so perché, ma per me desiderio è una parola leggera, una parola, insomma, che ispira, una parola che fa volare alto. Per una poetessa invece il desiderio che parola è? Beh, è anche una parola che guarda verso l'alto, perché se andiamo alle radici del suo significato, io ho scoperto l'etimologia della parola desiderio, me ne sono veramente innamorata, perché viene dal latino, da sidus sideris, che è la stella, e da questo de, che vuol dire senza, e quindi etimologicamente significa accorgersi dell'assenza delle stelle, e quindi desiderare nel senso di accorgersi che qualche cosa ti manca. Nella notte non ci sono le stelle, quindi cambia la notte quando non ci sono le stelle, qualche cosa ti manca, e da questo è potentissimo questo significato della parola, per cui può proprio generare delle idee di desiderio. Poi noi possiamo anche dire siamo malati di desiderio spesso e volentieri, no? Cioè ne abbiamo così tanti che quasi soccombiamo. Però se ci pensiamo, se torniamo alle radici della parola, l'etimologia è accorgersi che qualcosa ci manca. Sì. E quindi spesso, appunto, le storie delle parole raccontano tantissimo anche di noi, perché poi le parole sono nate dagli uomini, per cui non a caso. Dopo la poesia ha anche un'altra connessione con il desiderio, mm-hmm. C'è proprio tutta una corrente poetica che è agganciata al desiderare, con la parola tedesca Sehnsucht, no? Che vuol dire anelare verso qualche cosa, ma così tanto che quasi il desiderio ti fa del male, cioè ti fa dolore, ed è un dolore fin piacevole continuare a desiderare qualche cosa. Eh sì, il momento dell'attesa. Però stavo pensando a questa cosa delle stelle, che è molto bello, perché desideri una cosa che comunque c'è ma non vedi in quel momento, però ne percepisci la presenza, quindi è bello, ma no? Il senso era anche che gli indovini, guardando le stelle, dovevano in qualche maniera trarre degli auspici, per cui per loro che non ci fossero le stelle, che non si vedessero, ecco, che non si vedessero le stelle era un problema, perché sentivano fortemente la mancanza, anche se appunto magari sono dietro le nuvole o non le possiamo vedere per questi motivi, e ci sono lo stesso, ma non ci danno la loro luce e quindi ci manca. E noi andiamo a vedere questa luce, lo facciamo con gli occhi di un marinaio. Beh, si parla di appunto un cielo stellato, quindi il marinaio proprio in quelle stelle trova la sua guida, e lo facciamo con una poesia di Chiara Carminati, canto serale del vecchio marinaio, tratto dalla raccolta Il mare in una rima. Ciao Chiara, grazie, noi ci ritroviamo il 1° di gennaio, quando parleremo di paura. Ciao! Buon fine ciao, anno! Ciao. Canto serale del vecchio marinaio. Ho viaggiato in mare aperto, ho scoperto isole e terre, ma mi resta un desiderio. Ho vissuto in molti porti, ho parlato con i pesci, ma ho ancora un desiderio. Desidero le onde asciutte e silenziose, desidero le isole di acqua dolce immobile. Un oceano dorato con centro incerto. Il mio desiderio è vedere il deserto. Terra in vista. Terra in vista, le emozioni spiegate a mio figlio. È il momento di una seconda domanda a cui dare risposta. E quando un desiderio diventa pericoloso? Parliamo di desideri oggi. Strano associare la parola desiderio alla parola pericolo, invece... Ma se l'oggetto del desiderio è pericoloso, giusto. Allora, quando un desiderio diventa pericoloso, quando diventa quella cosa che appunto ti rovina la vita, ti fa stare male, ti fa vivere le tue giornate come se fossero una gabbia, beh, per scoprirlo abbiamo invitato una pedagogista. Diamo il benvenuto a Silvia Pagani, ideatrice della Non Scuola Artademia. Ciao Silvia, buone feste e benvenuta a Terra in Vista. Ciao. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, il desiderio può diventare pericoloso quando? Allora, quando noi confondiamo il desiderio con qualcos'altro, perché se ci pensiamo bene, il desiderio è uno degli ingredienti fondamentali della vita. I bambini, i ragazzi devono imparare a desiderare. La cosa più pericolosa è quando i desideri non ci sono o non ci sono più. Il desiderio è un viaggio, no? Non è come il bisogno che è centrato sull'oggetto. Il desiderio è tutto quello che ci sta prima di raggiungere la meta. Quindi il desiderio è quello che rende il piacere molto migliore, quello che ci fa sognare, ci fa pregustare l'obiettivo. Diventa pericoloso in realtà quando non è più un desiderio, ma quando si trasforma in un'ossessione, no? Uh-huh. Allora, ci sono diversi motivi per cui succede questo. Da una parte, io credo che i nostri figli o i nostri studenti vadano accompagnati a capire qual è il desiderio. Pensiamo alla letterina, visto che siamo sotto le feste, la letterina di Natale o la richiesta ai genitori, no? Per i regali. È importante che uno contenga, per esempio, delle cose anche non così concrete, perché se il bello del desiderio è il viaggio, nel momento in cui io metto tra i desideri anche, che ne so, essere più bravo a scuola, riuscire a controllare la rabbia, attivo già un meccanismo che poi mi porterà in quella direzione, no? E l'altra cosa è anche quella di mettere in conto che i desideri possono non avverarsi. Può succedere, no? Certo. Certo. Fa parte del gioco. Esatto, e se non siamo capaci, se non li abituiamo per esempio a vedere che di tante cose che uno desidera non tutte sono raggiungibili, rischiamo poi di passare in quell'altra fase che è quella dell'ossessione. Cioè, io ai ragazzi dico sempre, la vita È come se fosse una bellissima torta che deve avere almeno 8 fette sempre presenti. Cioè, che cosa vuol dire? Che nella mia vita ci deve essere la fetta per la famiglia, per gli amici, per la scuola, per una passione e via dicendo. Sempre almeno 8. Perché? Perché se c'è una fetta che prende lo spazio delle altre, è come se io perdessi delle cose molto preziose. Ne ho sempre almeno bisogno 8. Quando un desiderio, che a quel punto non è più un desiderio, ma diventa un'ossessione, comincia a tempestare nella testa di un ragazzo, è perché a quel punto è diventato un modo di canalizzare una tensione, è diventato qualche cosa che ha sconfinato, che non è più nel suo ruolo. Quella fetta di torta relativa all'ottenimento di quella cosa particolare sta smangiando tutte le altre fette, e questo è il momento in cui quello che potrebbe sembrare un desiderio in realtà non è più un desiderio, perché la cosa fondamentale è che mentre noi desideriamo stiamo bene. È bello pensare a quello che desideriamo. Quando invece siamo nella fase dell'ossessione non stiamo per niente bene. Silvia, ma con i tuoi ragazzi non noti qualche volta anche il contrario dell'ossessione? Cioè quella noia, quell'impressione che di avere tutto? Perché non si capisce mai bene se la noia è una cosa buona o una cosa cattiva. Tu come la vedi? Allora, la noia è una cosa, è utile imparare a gestire la noia, per cui è importante lasciare degli spazi vuoti, perché poi è dal silenzio che di solito nascono le cose migliori e le migliori intuizioni. Certo che se la vita si trasforma in una vita noiosa, anche lì la festa della noia ha preso troppo spazio. Quando i ragazzi sono annoiati e non desiderano più, tendenzialmente non è tanto perché hanno tutto, perché magari hanno tante cose materiali ma gli manca qualcos'altro. Si annoiano perché non hanno imparato a desiderare, perché forse il desiderio è stato centrato sempre su cose molto concrete, cose che è facile ottenere, perché bene o male, più o meno, prima o poi le cose concrete le otteniamo, no? Sono le altre, quelle preziose, quelle che ci fanno stare bene, una giornata con gli amici, un'avventura particolare, una giornata con i genitori, per cui quel tipo di noia che dici tu subentra nel momento in cui un po' si spengono, cioè si confondono e dicono vabbè, ma se tutto quello per cui uno deve bramare è questo, non è che la vita sia poi così saporita. Ci vuole un'educazione al desiderio, assolutissimamente. Anche magari a imparare a desiderare altro se quello che proprio desideri non riesci ad ottenerlo. Assolutamente. Io mi ricordo che quando ero piccola, io sono vecchia, però quando ero piccola i miei genitori mi facevano fare la letterina di Natale e c'erano sempre delle cose che non arrivavano, piuttosto che c'erano anche delle cose che ci chiedevo che non erano oggetti. Raramente l'ho visto fare poi ultimamente, cioè spesso è proprio una sorta quasi di lista della spesa, dove viene meno tutto quello che dicevamo prima legato al desiderio. Se i bambini non vengono educati a questo, perché loro guardano, ci guardano e capiscono che la vita funziona a seconda di quello che gli passiamo noi, se loro non vengono abituati a desiderare, pensate quanto il desiderio renda il piacere interessante. Se a un bambino regaliamo un cucciolo che non desidera, sì, è contento, ma insomma è contento così così. Se regaliamo un cucciolo che ha desiderato per tempo, lo facciamo la persona più felice del mondo, perché il desiderio è proprio la premessa per il piacere. È una delle cose più importanti per cui educare i figli. Mm-hmm. E poi anche un allenamento all'attesa, che insomma bellissimo, no? Assolutamente. All'attesa e alla delusione, perché quando poi arrivi in fondo e una di quelle cose non l'hai ricevuta, è una frustrazione, però è vero anche che se ci sono altre cose, ci sono cose belle, ci sono cose importanti, impari anche che ci sono delle cose per cui forse il bello è stato il viaggio, no? Per arrivare lì, e poi fa niente se l'obiettivo è cambiato. Anche questa è un'altra cosa importantissima, il non dare per scontato che per forza quello che desidero deve arrivare, perché altrimenti poi entriamo anche in quella dinamica per cui quando poi sono adulti si mettono degli obiettivi e se non li raggiungono si sentono dei falliti, e invece no, ci mettiamo degli obiettivi, partiamo per questo bellissimo viaggio per raggiungere i nostri desideri, qualche volta va bene, qualche volta deviamo. Un grazie davvero a Silvia Pagani, ricordiamo artademia.it per tutte le informazioni sulla non scuola. Ciao Silvia, buone feste ancora. Ciao. Adesso è il momento di una delle storie di Telmo, storia desiderata. Voglio raccontarti la storia di un desiderio molto particolare. Tu, Fede, arrossisci? Non tantissimo. Non lo so, devono dirlo gli altri, tra l'altro non devi dirlo tu. L'hai chiesto a me, non agli altri, io ti ho risposto da me. Secondo Darwin, l'espressione emotiva più tipica, caratteristica, unica dell'uomo è proprio il rossore. L'ho fatto studiando i pesci rossi, lui l'ho capito, immagino. Che è il desiderio di nascondersi. Tu provaci, le scimmie arrossiscono per la rabbia, ma mai per la vergogna. E cosa succede? I vasi sanguigni si riempiono, quelli del volto, del collo, delle orecchie, si gonfiano, a volte a macchie, a volte a vampate. Ed è una cosa del tutto involontaria, non puoi provocarlo, non puoi reprimerlo, non avevi mai notato? No, e le cause... sì, quello sì, è un modo per nascondersi, una sorta di maschera. Sì, è un desiderio di nascondersi. Le cause possono essere l'imbarazzo per qualche aspetto fisico, il pudore sessuale, l'indignazione, la timidezza e anche l'amore, naturalmente. Quindi ti provoca l'idea di nasconderti, lo sguardo abbassato, la testa reclinata, e pare che le donne arrossiscano un po' di più degli uomini nelle culture occidentali perché hanno una maggiore sensibilità verso l'aspetto personale. E pensa che si arrossisce per la vergogna in praticamente tutte le culture nel mondo, è un fenomeno pressoché universale. E se arrossisci comunque non è una cosa brutta, perché vuol dire che hai una coscienza molto sviluppata, perché per arrostire vuol dire che hai il senso della reputazione, che hai un'attenzione verso te stesso e soprattutto quella che gli scienziati chiamano una teoria della mente, cioè ti stai chiedendo ma cosa staranno pensando gli altri di me, e quindi capisci che gli altri hanno aspettative, intenzioni, dei giudizi. E pensa che si arrossisce anche quando fai un pensiero intimo che nessuno può intuire o capire, si arrossisce anche da soli, pensa, quindi perché stai pensando al giudizio, l'opinione degli altri. Quindi il rossore è un fenomeno molto evoluto che ti fa capire una cosa importante, che le emozioni sono un ingrediente, come i desideri, fondamentale per sviluppare il senso morale. Ho capito che quindi se io non arrossisco vuol dire che non sono molto evoluto. Esatto. Era questo che volevi dirmi, tutto controlla. Questo giro di parole. Ok, questi sono i desideri, ora è il momento degli animali. Eh sì, perché è un appuntamento fisso per noi di Terra in Vista, appuntamento che come sempre ha protagonista Caterina Spiezio, che è responsabile del settore ricerche e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo, parconaturaviva.it per tutte le informazioni. Ciao Caterina, ben ritrovata e buone feste ancora. Ciao. Ciao, ciao a tutti, buone feste. Eccoci qua. Allora, desiderio e animali, emozioni e animali, appunto stiamo cercando di capire se le emozioni ci sono anche nel mondo animale. Oggi lo facciamo con il desiderio. Allora, gli animali desiderano? Ebbene sì, desiderano proprio perché certo si muovono sicuramente per bisogni primari, per necessità, però hanno emozioni, hanno motivazioni, hanno desideri. E in particolare se si è un maschio, il diventare all'interno di un gruppo sociale il maschio dominante è veramente importante, perché un maschio dominante ha accesso alle risorse, ha le attenzioni delle femmine, quindi diciamo che è una condizione dove i maschietti all'interno di un gruppo sociale desiderano raggiungere, in particolar modo se si è all'interno di un branco di lupi dove un ruolo quale quello del maschio alfa è un ruolo di leader. E vi voglio raccontare una storia oggi che è accaduta al Parco Natura Viva, che riguarda proprio il branco di lupi del Parco Natura Viva, dove Wolf è stato il maschio dominante per ben 15 anni, maschio dominante, leader, il capo, quello che porta avanti il gruppo, che muove il gruppo, che dà sicurezza. Il branco si muove solo seguendo Wolf, quindi era una figura veramente importante, e dico era perché adesso vi racconto la sua storia. Ad un certo punto Wolf, ovviamente 15 anni, inizia ad essere un lupo anziano ma ancora molto saggio, ancora molto capace di guidare il proprio gruppo. All'interno però del branco c'è qualcuno, dei giovani che stanno crescendo, e qualcuno che pensa di poter prendere il posto di Wolf, che desidera prendere il posto di Wolf. Si iniziava ad osservare qualcosa di particolare, c'era molta più tensione, c'erano diciamo dei comportamenti agonistici che si manifestavano in maniera più frequente rispetto alla normale situazione di questo branco di lupi. Sì. E questo ci faceva pensare che probabilmente qualcuno all'interno stava desiderando qualcosa di diverso, la propria posizione, il proprio ruolo all'interno del branco non lo soddisfaceva più. Questo l'abbiamo già sentita spesso anche nel mondo umano questa storia. Succede, assolutamente succede. Sì. E ad un certo punto, in una situazione di tensione, Wolf di solito arrivava, controllava quello che stava accadendo, si imponeva come postura, espressione facciale, ma non attaccava mai gli individui, non arrivava mai all'attacco, e questo era sufficiente per controllare la situazione. E ad un certo punto però Wolf prende un morso da invece uno dei lupi giovani che stavano lottando tra di loro, e questo ha portato Wolf a sentirsi non più accettato all'interno del branco, a non sentire più accettato il proprio ruolo, quindi si è messo un pochino in disparte, ha provato all'inizio a resistere, a provare ad imporre la propria leadership, ma si è proprio lasciato andare, si è proprio lasciato, diciamo, in una condizione dove veniva meno quello che era il suo ruolo e non sapeva più come gestire questa situazione. A quel punto purtroppo Wolf ha perso la sua vita, ma il branco ha perso il proprio leader, e il problema era che l'individuo che ha provato a fare, diciamo, questo colpo di stato non era ancora pronto, perché avrebbe dovuto certo desiderare questo ruolo, ma lavorare per ottenerlo, quindi imparare, seguire, osservare Wolf nel corso del suo guidare. Doveva apprendere le competenze da leader. E che nei lupi si comanda il più saggio, no? Il più violento. E quindi adesso questo branco è senza leader? Dopo un anno e mezzo il branco è ancora senza leader, ci sono ancora delle tensioni, noi continuiamo ad osservare e a fare raccolta di comportamentale, perché è importantissimo per capire come aiutare a gestire il gruppo, però è ancora così, perché purtroppo non è la forza che è stata utilizzata per ottenere questo ruolo, diciamo, non è sufficiente, non va bene, non basta, non serve urlare, non serve alzare la voce, non serve attaccare, basta comportarsi nella maniera adeguata e avere la fiducia da parte degli altri membri del branco. Beh, speriamo che il 2018 porti un nuovo leader al branco del Parco Natura Viva, parconaturaviva.it. Vi ricordo ancora il sito per tutte le informazioni. Un grazie a Caterina Spiezio per averci accompagnato in questo viaggio nelle emozioni, nel mondo animale. Ciao Caterina, buon anno. Ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao, grazie. E ora una poesia dove ancora protagonista è un animale, si intitola Il primo polpo, tratta dalla raccolta Il mare in una rima. Il primo polpo. Il primo polpo pelò patate, pulì pelati e partì per i posti più impensati. Il primo polpo planò su pianeti lontani, piantò pompelmi e pitturò palme di pellicani. Poi però pianse un po' perché si sentiva solo, solo. Ecco come nacque il mare, dalle lacrime di un polpo che implorava un posticino un po' più popoloso. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta Terra in Vista. Terra in Vista, le emozioni spiegate ai nostri figli. La parola di oggi è desiderio, è il momento della terza domanda. Come si allenano i desideri? Bella domanda, come si allenano i desideri? Abbiamo detto che vanno educati, vediamo come. Abbiamo detto che è difficile averli, abbiamo detto che ci sono bambine e bambini che fanno fatica anche a esprimere desideri, esprimere sogni, quindi insomma vanno in un qualche modo, sì, allenati, accompagnati. Beh, per trovare una risposta abbiamo invitato un allenatore, è stato allenatore della nazionale di volley, attualmente è amministratore delegato della scuola Holden, quindi si occupa anche di racconto, di narrazione. Diamo il benvenuto a Mauro Berruto. Ciao Mauro, buone feste. Ciao. Feste a voi, grazie della chiamata. Si allenano. Bello questo ruolo di allenatore dei desideri, perché io l'ho svolto, sì, ma mi riferivo ai miei, quindi insomma quelli degli altri è più complicato. Scusa, un allenatore deve allenare i desideri, credo che il desiderio, no, faccia parte dell'attitudine di uno sportivo, no? Guarda, io credo che allenare al desiderio di, e ci metto dei puntini in sospensione dopo, sia veramente il fattore fondante del gesto dell'allenare. Questo significa che ovviamente per allenare e ottenere dei risultati occorrono delle competenze tecniche, delle qualità tecniche, per l'amor del cielo, però il fattore veramente decisivo, il fattore che fa veramente la differenza, è proprio questa capacità di allenare al desiderio di. Credo che sia davvero, insomma, prima ci giocavo su e scherzavo un po', ma credo che sia davvero un compito molto serio degli allenatori, e ovviamente non mi riferisco solo agli allenatori sportivi, uh-huh. mi riferisco a tutti coloro che esercitano il gesto dell'allenare, ovvero mettono insieme persone di qualunque età, creano delle squadre e quindi trasformano dei semplici, tra virgolette, gruppi di persone in squadre, e poi danno degli obiettivi e quindi dei sogni e quindi dei desideri a quelle squadre, e poi cercano di accompagnare le loro squadre verso quella che è la maledizione di ogni desiderio, ovvero la sua realizzazione. Infatti, pensavo a questo, stai dicendo quello che di solito si dice con la fame, no? Una squadra che ha fame e che porta a miracoli, tipo il Leicester che vince il campionato inglese, è quello il punto? Diciamo che è qualcosa forse anche di dimensioni più ampie di quella che nelle cronache, insomma, i cronisti chiamano fame. È qualcosa di grande, prima di tutto. Quindi il primo consiglio per rispondere alla domanda del bimbo che sentivo prima è quello di non avere veramente mai paura di esagerare, nel senso che più i desideri sono grandi, più richiedono sforzo ed energia per essere realizzati, e più mettono in moto energie vitali che sono fondamentali. E sono fondamentali, ripeto, sia per poi portarli a termine, quei desideri, a realizzarli se ci si riesce, ma altrimenti per garantirsi quel viaggio straordinario verso l'obiettivo, che poi alla fine forse è la cosa più bella e più importante. Guarda, c'è un'immagine che io qualche volta uso quando parlo di queste cose. Io mi sono occupato di sport da tanti anni, quindi abbiamo ben chiara la fotografia, l'immagine che vediamo quando un atleta sale sul podio, no? Sì. E qualcuno gli mette una medaglia al collo, subito c'è un momento di felicità assoluta, è proprio il raggiungimento di un obiettivo, no? Immediatamente dopo, se voi guardate quelle immagini, vedete sempre degli occhi che si abbassano, degli sguardi che cambiano un po' di espressione, no? E dei sorrisi che si trasformano. Non è malinconia, non è nostalgia, è che già lì, e questo i grandi atleti lo insegnano, nasce l'idea che hai finito un percorso e devi incominciare a tracciare un altro, e stai già incominciando a desiderare qualcosa di più o di diverso. E credo che lo sport da questo punto di vista sia veramente un bel, non è una metafora, perché poi in realtà lo sport, banalmente si dice una metafora della vita, lo sport è la vita in tutte le sue, certo, i suoi aspetti, le sue difficoltà, le sue bellezze, le sue complicazioni, eccetera. Uh-huh. Però insegna che la cosa che un atleta, che una squadra, che un allenatore insegue per tanto tempo ti ha dato la bellezza assoluta del viaggio che ti ha portato fino lì. Quando quel viaggio termina, sei già alla caccia di un nuovo stimolo, desiderio, di un nuovo sogno, di un nuovo obiettivo. Però si impara qualcosa anche dalla sconfitta, ovvero dal desiderio non realizzato? Ma guarda, qui ti rispondo proprio scientificamente, nel senso, la sconfitta è un fattore necessario per l'allenamento e per l'apprendimento. Questo è fuori discussione. Senza sconfitte non c'è la possibilità di analizzare nel dettaglio il feedback e quindi la valutazione di quello che tu hai fatto, nel bene o nel male. Molto banalmente, quando si vince si pensa molto di meno, si analizza molto di meno. Quando si perde, la sconfitta ti costringe a farlo in una maniera molto più approfondita e tagliata. Quindi perdere, magari non sempre ovviamente, ma perdere serve a vincere, e perdere è un fattore necessario per garantirsi e costruirsi la possibilità di vincere successivamente. Con Mauro Beruta abbiamo parlato di desiderio anche per un articolo che uscirà su Topolino all'inizio dell'anno, insieme a lui tanti altri scrittori che hanno fatto una giornata intera sul desiderio, il Perfect Day alla scuola Holden. E alla domanda che ho fatto a Mauro, qual è un libro che consiglieresti ai più piccoli per capire cos'è il desiderio? Tu hai citato Il Piccolo Principe, perché? Il Piccolo Principe, perché Il Piccolo Principe, come è noto, è stato scritto da un signore che era un grande sognatore, aveva una grande capacità di esprimere desideri giganteschi, che si chiamava Antoine de Saint-Exupéry, ed è colui che ha scritto un po' una frase che io cito spessissimo quando mi viene chiesto che cosa sia allenare, in che cosa consista il gesto di allenare. Io, rispondendo come dicevo prima, allenare altro non è che allenare al desiderio di, cito questa frase sua che dice fondamentalmente: se vuoi costruire una barca non serve radunare uomini, insegnare loro la tecnica, partire degli ordini e quant'altro, ma bisogna insegnare a loro la nostalgia per il mare vasto e infinito. Sì. Questo richiama la nostalgia, che è un upgrade del desiderio, un desiderio ancora più intenso, un desiderio ancora più potente, ancora più forte. Mi fa pensare che davvero lì dentro, in questa frase molto poetica, molto ben scritta ovviamente da un grande autore, ci sia proprio tutto il significato che io do al gesto dell'allenare, e quindi chiaramente consiglio la sua opera più famosa, insomma il suo capolavoro, che è una bellissima metafora di quanto sia importante per tutti noi, non solo per i bambini, ma per i bambini, per gli adulti, per gli anziani, per qualunque categoria di genere umano, sia non smarrire mai la dimensione, la bellezza nel sogno e nel desiderio. Grazie davvero a Mauro Berruto per essere stato con noi in questa puntata dedicata ai desideri. Ciao, buone feste. Grazie a voi, ovviamente che questo nuovo anno vi accompagni nei suoi desideri enormi e possibilmente raggiungibili. Possibilmente, grazie. Mi piace. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Telmo, è il momento di un'altra storia, di una delle tue storie, dove ci accompagni ora. Beh, citato Saint-Exupéry, non a caso un aviatore, quindi uno che guardava le cose dall'alto. Io ti racconterei una storia di come non bisogna allenare i desideri e le emozioni. Perché noi sappiamo che l'intelligenza emotiva è proprio la capacità di governare i desideri, di indirizzarli bene, di farli crescere sempre più grandi e sempre più sani. Pensa che, secondo ricerche scientifiche abbastanza serie, risulta che se tu hai delle buone emozioni e hai dei buoni desideri, sei anche più in salute, meno malattie cardiovascolari addirittura. Quindi vuol dire che fanno veramente bene. Ma per allenarli bisogna evitare di non prendere delle scorciatoie. Per esempio usare sostanze che provengono dalle piante, quasi tutte, che alterano i nostri desideri, le nostre emozioni. Questa è un'abitudine, un vizio molto antico, perché in tutte le civiltà antiche usavano certe piante chiamate psicoattive, che alterano proprio i desideri, aumentano l'euforia, alleviano la fatica e ti fanno fare delle esperienze piacevoli e mistiche, che però sono ingannevoli praticamente. Noi per arrivare a questa illusione abbiamo assaggiato, bollito, inalato, distillato praticamente di tutto. E pensa che le piante hanno inventato queste sostanze come difesa, ancora una volta, contro i predatori, per intontirli e per dissuaderli dall'attacco. E così il papavero ha inventato le sue sostanze, la cannabis ha inventato le sue sostanze, fanno bene, ci servono in alcuni casi per guarire, per lenire il dolore, ma in realtà poi creano dipendenza e ci fanno molto male. E soprattutto ci fanno perdere il controllo, e come abbiamo sentito adesso da Mauro Berruto, invece le devi coltivare tu, le devi alimentare, devono essere tue, devono essere parte della tua indole. E soprattutto non illudiamoci che con una pillolina, purtroppo i nostri tempi ci portano a questo, ma dobbiamo resistere, che con una pillolina si possano modulare le emozioni come vogliamo, perché questo non è possibile. Si sono evolute per importanti funzioni, non vanno soppresse al primo disagio, ma vanno allenate. E prima, insomma, parlavamo di sport fino a un attimo fa, il doping è proprio... è la stessa cosa. Questa, esatto. No? Cioè prendi un desiderio e lo inganni di fatto. Perché? Esatto, ma non bisogna correre, nel senso che oggi siamo in un'epoca in cui un'emozione magari un po' troppo forte porta subito a diagnosi di iperattività. No, calma, non interveniamo subito con delle pilloline, cerchiamo di capire il senso di quella cosa. Termina qui questa puntata di Terra in Vista. Un grazie a Paolo Corleoni alla parte tecnica, un grazie a Guido Scotti e a Valentina Ternullo che ci hanno dato una mano a preparare le puntate. E Terra in Vista, tutte le puntate le potete trovare sul nostro sito radio24.it. L'appuntamento è al 1 gennaio con la terza parola che abbiamo scelto per questo viaggio nelle emozioni, e la parola è paura. E adesso ci salutiamo con una poesia. La voce è sempre quella di Chiara Carminati, che è anche autrice della poesia stessa, tratta dal libro Poesie per aria di Topi Pittori. Il titolo è Non c'è nave. Ciao Telmo e buon anno. All'anno prossimo. Non c'è nave. Non c'è nave con poppa, con prua. Non c'è barca a remi, a motore, né relitto per rotto che sia, che allo sguardo non faccia venire voglia di partire.